Vorrei un mondo diverso, tutto al rovescio, dove ognuno di noi fosse se stesso, il disonesto che diventa onesto, e se hai talento non si giudica in base al successo. Intelligenti fossero flessi, vogliamo migliorare il mondo, iniziamo da noi stessi. Ricoprire l'odio sotto uno strato di cemento, e le promesse fatte non volassero col vento. Non voglio paragonare il mondo di ora ad allora, perché l'unica cosa che cambia è solo la moda. Ma è inutile che farlo, è sempre la stessa storia. L'umanità fa di tutto per fare un po' di gloria. Ormai tutto è diventato una merda, e siamo solo anime in cerca di una meta. Cerchiamo un motivo idiota per farci la guerra. Non voglio migliorare solo l'Italia, ma tutto il pianeta. Come sarebbe bello se il mondo fosse diverso, ma non spreco la mia vita per sperare in un altro universo. Ma non resto qui a cantare, perché nessuno ha voglia di fare, o almeno di cambiare qualcosa che non va. Prego e cerco Dio per aiutarmi, spero che un giorno possa mai perdonarmi per il male che ho commesso. A volte mi guardo allo specchio e rifletto. Per vivere bene paga il biglietto. Il biglietto del venduto ti permette di non fare un cazzo e stare seduto. Il fatto che tutto questo deve finire, e lo sai che non c'è peggio sotto di chi non vuol sentire. Senza fare un cazzo andiamo avanti, agli occhi degli altri siamo sempre santi. Passano gli anni e non cambia niente, la TV che purtroppo è inquinato il cervello della gente. La religione che impone le proprie regole, noi senza ragionare tutti dietro come pecore. Non serve la guerra per fare la pace, mettiamo dentro l'orgoglio e crediamo, mi dispiace. Come sarebbe bello se il mondo fosse diverso, ma non spreco la mia vita per sperare in un altro universo. Ma non resto qui a cantare, perché nessuno ha voglia di fare, o almeno di cambiare qualcosa che non va. Ci appelliamo a Dio solo nei momenti bui, preghiamo nelle situazioni più opportuni. Fiumi di parole che valgono poco, dentro me, dentro noi brucia un grande fuoco. La morale di questa canzone c'è, e questa sensazione devi scoprirla te. Riguardiamoci da cima a fondo, scopriamo il meglio di noi, e poi dire al mondo sono pronto.